siamo a fronte aperta. E che musica stavi ascoltando? Una tassarizza, dai. Il di Giovannino Giorno. No, vabbè, tassarizza Rusinca, chissà, eh. No, che sto ascoltando questo festival, la canzone, perché Giovanna. Io ti accendo tutti, va. Hola. No, non ho visto. E te li accendo tutti, guarda un po', guarda, hola. Quando fissi a... Hola, guarda adesso, hola, hola, hola. Tu si fissa la mia età, io non ce la faccio. No, normale. Una sempre... Sì, anche tanto, se qua. Devi attaccare un bel, devi attaccare. Ma dai, non prego. Hola. Prendi troppo, non va bene. Infatti, adesso abbasso poco poco. Ma sono tipo 10 watt mi stai caricando. Ma 10, 10 per 10. Sentito nessuno? No, no, io no. E tu sentito nessuno mai? Negativo. Va bene, ti lascio, dai. Sono qua in QRX, magari ci sentiamo dopo. No, ma io sai che sia un dato. Non vediamo che sia. Siamo al capitolo. Non ho capito più un cazzo. La gente non vuole entrare. A casa, già ti ho capito, dai, a dopo. Ciao.